Gli speciali di Radio 24. Buongiorno da Dario Ceccarelli e benvenuti a questo speciale sul Giro d'Italia che, tanto per stupirci, parte dalla Danimarca e precisamente da Herning, 58.000 abitanti che vanno quasi tutti in bicicletta. Ma più che una questione di feeling è una questione di business, perché dagli sponsor e dagli amministratori locali pioveranno quasi 4 milioni di euro e di questi tempi è tutto grasso che cola. È la prima volta che un grande giro arriva così al nord, 3 giorni al 56° parallelo e poi la carovana ritorna martedì in Italia per concludere il suo viaggio a Milano il 27 maggio. Che giro sarà? Difficile, ma non impossibile, con pochi chilometri a cronometro e con un'ultima settimana piena di montagne dai nomi illustri. Ma prima di salire sulle Alpi, ritorniamo in Danimarca, dove c'è Pier Augusto Stagi, il nostro inviato di questo giro. Pier Augusto, che effetto fa partire da così lontano, dal 56° parallelo? Ma fa effetto in provare così tanto calore per una corsa estremamente distante dall'Italia. Eppure sembra che sia il Giro di Danimarca. Bisogna andare nel profondo sud dell'Italia per trovare tutto questo entusiasmo, però l'avevamo già vissuto, l'abbiamo vissuto a Groningen in Olanda, l'abbiamo vissuto ad Amsterdam qualche anno fa, che sono stati veramente di un'accoglienza eccezionale, e devo dire che la stessa cosa la riscontriamo proprio chiaramente anche qua a Herning, una cittadina che ha dato i natali a un illustre ciclista che è Bjarne Riis, vincitore di un Tour de France macchiato da una sua confessione tardiva, peraltro dopo 8 anni, quindi caduta in prescrizione, però sicuramente con un condensato di passione ciclistica enorme. Ma al di là del business, agli appassionati piace partire così da lontano? Lo chiediamo a Davide Cassani, uno che di giri se ne intende, avendone fatti 12 da corridore e seguendolo adesso come commentatore per Rai Sport. Allora Davide, è una buona idea? Penso di no, perché tutti quanti noi siamo un po' egoisti in questo e amiamo il Giro d'Italia in Italia. Quando io ero un ragazzino amavo il Giro d'Italia quando passava sotto casa, quando ero un corridore preferivo che partisse dall'Italia, e anche da commentatore, a dire la verità, amo il Giro quando si fa a casa nostra. Però sai, possiamo dire che esportiamo un Made in Italy in Europa. Certo, ecco, il Sud viene un po' trascurato. Sì, ed è un grosso peccato, perché quando andiamo al sud, a tutte le volte che c'è qualche tappa al sud, c'è una festa immensa, un calore straordinario, e penso che questo sia un peccato. Però da quel che si legge, da quel che si dice, l'anno prossimo dovrebbe partire dalla Campania il Giro d'Italia, vuol dire che ci sarà tanto sud. Non è un bel momento per l'Italia, per l'Europa. Una volta il Giro d'Italia era così, quella manifestazione che ricompattava un po' un paese. Secondo te lo è ancora? Penso di sì, perché comunque è un modo per divagare sul tema, perché è una corsa in bicicletta, è un evento di sport, ma il Giro d'Italia è qualcosa di più, è storia, è cultura, è emozione, e quindi penso che tutte le persone, che anche quelle che vivono un momento non bellissimo adesso, quei minuti o comunque quelle ore che passano aspettando i girini, aspettando una tappa del Giro d'Italia, riescono a dimenticare un po' le cose brutte e sognare qualcosa di bello, anche perché, almeno per quanto mi riguarda, io tutte le volte che vedo, che vedevo passare un Giro d'Italia quando ero un ragazzino, per me era una grande festa, e quindi quando penso al Giro penso ancora quando da bambino sognavo di diventare un corridore. Senti, lo preferivi da corridore o da commentatore fare il Giro d'Italia? Adesso da commentatore, perché il giro è duro, uno non immagina cosa voglia dire fare un Giro d'Italia in bicicletta, 3 settimane, 3.500 chilometri, poi quando correvo io le tappe erano anche più lunghe, si partiva prima e quindi la colazione era sempre alle 6:30, alle 7, alle 7:30, un piatto di spaghetti non era il massimo, e quindi avendo corso 12 Giri d'Italia in bicicletta, apprezzo quello che fanno, ma sono contento di avere la mia cuffia, la mia postazione, anche perché comunque questo è un modo per essere in gruppo facendo un po' meno fatica. Un altro personaggio che resta in gruppo e fa meno fatica è il CT della Nazionale, Paolo Bettini. Allora Paolo, che giro sarà? Di sicuro non c'è un favorito. Così sembra, non c'è, in questo momento non c'è un favorito netto, non c'è nessuno che che detta legge, e credo che sarà un po' questo l'argomento principale di tutto il mese di maggio, con grande incertezza e sicuramente grande spettacolo. Tu come lo seguirai? Andrai a fare qualche tappa? Ma io li seguirò, li aspetterò in Italia, aspetterò il giro in Italia, nel senso che da mercoledì, dalla cronometra squadre, mi aggregherò alla carovana e praticamente sarò ogni giorno al fianco del giro. Un giro meno duro forse rispetto all'anno scorso, però con un finale difficile. Io non sono mai stato un corridore da gare a tappe, ma un giro facile io non l'ho mai trovato, sono sincero. Tre settimane di fatiche si sentiranno come ogni anno, ci saranno tante salite concentrate in finale e questo servirà a fare la chiarezza in quella che sarà la classifica in quel momento. Ci sarà da attendere un po' di più per le grandi montagne, ma poi il risultato è sempre quello: chi va forte avrà il tempo per dettare legge. Proviamo a fare dei nomi. Il primo nome è Ivan Basso, che ti viene in mente? Ivan Basso, Michele Scarponi, giochiamoci gli italiani. Michele Scarponi si ritrova vincitore di un giro, ma da atleta sono convinto che vuol vincerlo sulla strada e non a tavolino. Credo che quest'anno partirà veramente motivato e darà grande battaglia. C'è anche la carta Damiano Cunego nella Lampre. Questo è sicuramente è una pedina a loro vantaggio. In due possono sicuramente sfruttare di più le occasioni che si creeranno durante le tappe e potranno sicuramente mettere in difficoltà gli altri avversari. L'Unione ha sempre fatto la forza e credo che in due, se sapranno approfittare di cosa offrirà la corsa, potranno sicuramente farlo. Vedi un giro soprattutto in chiave tricolore? Diciamo che mi sono soffermato sui nostri perché sono quelli che più ci interessano. Sicuramente ci saranno tanti avversari, è inutile stare a fare nomi, un po' meno degli altri anni sinceramente, ma questo non va a togliere niente a chi vincerà il giro. Chi vince un grande giro è segno che se lo è meritato e ha lottato chilometro dopo chilometro per tutte e tre le settimane. Eh sì, bisognerà lottare fino all'ultimo. Lo conferma anche Beppe Saroni, grande campione degli anni 80 e team manager della Lampre, la squadra di Michele Scarponi, arrivato secondo nel 2011 dietro a Contador. Allora Beppe, un giro aperto. Ma io mi auguro che sia un bel giro proprio per questo. Diciamo che sulla carta in questo momento non c'è nessun corridore che è al di sopra nettamente come a livello prestazioni, come lo era Contador l'anno scorso. Quindi potrebbe essere un giro più combattuto, più lottato e proprio per questo più interessante. Me lo auguro, perché poi alla fine l'interesse vero dello sportivo, da parte dello spettatore, è proprio avere questo antagonismo, questa lotta spalla a spalla e magari fra qualche secondo tra un corridore e l'altro. Questo in realtà è l'interesse del ciclismo. Michele Scarponi della Lampre parte col numero 1. Michele lo vedo bene, diciamo, in questo momento non è al 100%, però sta seguendo un po' i programmi che abbiamo fatto un po' a livello di preparazione atletica che abbiamo fatto per lui. L'anno scorso è partito in grandi condizioni e probabilmente l'ultima settimana è leggermente calato. Speriamo che quest'anno tutto lo porti ad avere in grandissime condizioni nella parte più importante del giro. È comunque un corridore che dovrebbe essere protagonista. C'è un convitato di pietra a questo Giro d'Italia, Contador, che pur avendo vinto l'anno scorso non ci sarà per la nota squalifica. Ormai è una storia che si ripete: il vincitore di un grande giro l'anno dopo è quello che si è piazzato secondo. Sentiamo ancora Cassani. Davide, ma questo doping non finirà mai? Diciamo che siamo stati tra i pochi sport a non mettere la testa sotto la sabbia. Sapevamo che c'era un problema e abbiamo cercato di risolverlo in tutte le maniere. I ciclisti sono stati i primi a fare i controlli antidoping, sono stati i primi a fare i controlli sul sangue, sono stati i primi a fare il passaporto biologico. Se tutti facessero come noi, forse lo sport starebbe ancora meglio. Il ciclismo da anni sta lottando contro questa piaga che non verrà mai debellata, perché è come dire che noi volessimo una società senza ladri e senza truffanti. Questo non è possibile, però da quello che è stato fatto, soprattutto in questi ultimi anni, i risultati si vedono adesso. Bene, Il nostro speciale finisce qui, ancora un saluto da Dario Ceccarelli e buon Giro d'Italia agli ascoltatori di Radio 24.